È arrivato giugno e sono alla scrivania, spremendomi il cervello per trovare un argomento da sottoporre agli inquieti ascoltatori, perché in giugno, alla 27esima o 28esima trasmissione, gli argomenti davvero scarseggiano. Quando suona il telefono, rispondo, è una signora o signorina dalla voce gentile, quasi flautata, che prima vorrebbe parlare con la signora, poi è disposta a parlare anche con me e spiegarmi cosa desidera. Rappresenta la tale associazione, la cui finalità è quella di migliorare le condizioni dei bambini handicappati e degli anziani nelle case di riposo. Beh, è un nobile obiettivo, gli rispondo io. E lei, cogliendo la palla al balzo, aggiunge che, visto che la penso così, forse non mi dispiacerebbe contribuire a questa loro attività con un'offerta a piacere. Anzi, per evitarmi qualsiasi indebito disturbo, è pronta ad inviarmi a domicilio un loro delegato fornito di regolare tesserino di riconoscimento, che incasserà la somma da me destinata e rilascerà regolare ricevuta. Io le sono grato di tanta premura, ma prima devo tranquillizzare la mia indole sospettosa. E sa, le spiego con circospezione per non offenderla, non vorrei dubitare dalle sue parole, ma di questi tempi è fin troppo facile telefonare in giro per spiegare quattrini agli ingenui in nome di una causa meritevole qualsivoglia. E non potrebbe fornirmi qualche particolare, qualche precisazione su come opera la sua organizzazione, su chi vi sia coinvolto, su quali garanzie possa dare a un donatore volonteroso? Lei non si offende per niente, fa una risatina a trillo e precisa. Ah sì, certo. Dunque, la nostra società ha come scopo il miglioramento delle condizioni dei bambini handicappati e degli anziani nelle case di riposo. Ha sede nella tal via un numero tale ed è stata preceduta in passato dal defunto Gino Bramieri, sa, l'attore, no? Poi è certo ad avermi convinto e mi chiede subito quale somma deve scrivere sulla ricevuta che il loro inviato mi consegnerà in cambio dei miei quattrini. Che Dio mi perdoni, io temo di averle mentito. Le ho detto che dovevo pensarci su e che mi richiamasse pure, ma non subito, perché per qualche tempo sarei stato occupatissimo. A pensarci su. Non ho avuto cuore di farle notare che le sue garanzie non garantivano niente, visto che un indirizzo, una ricevuta, un tesserino di riconoscimento hanno un significato soltanto se il destinatario è dotato di qualche capacità di riscontro, che non è il mio caso, né quello, immagino, degli altri interlocutori telefonici che lei e le sue colleghe avranno raggiunto. Quanto alla valvola rappresentata dal nome di un illustre defunto, beh, ragazzi, citare un nome non costa nulla a nessuno. Anche dando per scontato che quell'organizzazione non sia una struttura truffaldina, anche ammesso che ogni singolo centesimo raccolto vada ai bambini handicappati e agli anziani delle case di riposo, il loro modo di presentarsi fa davvero un po' troppo affidamento sulla credulità umana, sulla cattiva coscienza che spinge chiunque a tirar fuori una lira quando gli si ricorda l'esistenza dei tanti mali di cui di solito non si dà pensiero. E visto che io sarò forse un po' più meno credulo della media, ma sono molto più timido, e la timidezza in fondo è una variante particolarmente penosa della cattiva coscienza, non so resistere ai ricatti pietistici e posso solo sperare che quella signora o signorino, chi per lei, adesso sia in ascolto e capisca che non è il caso di telefonarmi ulteriormente. Quale che sia la natura dell'organizzazione, comunque, trappola per gonzi o struttura caritatevole, e beh, ammetterete anche voi che la scelta del nome del garante rasenta la perfezione. Qualsiasi nome di personalità in casi come questi ha le sue controindicazioni, e l'interlocutore potrebbe avere le riserve ideologiche su chiunque, sul Cardinal Martini, su Norberto Bobbio, su Enzo Biagi, su Luigi Veronelli, persino su Silvio Ceccato, che un po' somiglia a Tardo Bramieri e come lui ama molto raccontare le barzellette in pubblico. Qualsiasi eminente figura pubblica disposta, se vivente, a figurare in quel ruolo può avere le sue controindicazioni. E anche le figure dello spettacolo, insomma, qualcuno ha stancato, qualcun altro si è lasciato incastrare in una storia di quiz truccati, uno è finito sotto gli obiettivi dei fotografi di Eva 3000, tutti potrebbero per qualche verso essere incorsi nel biasimo dei puristi. Ma chi potrebbe avere qualcosa contro Gino Bramieri? È stato un grande uomo di spettacolo, ha definito strenuamente la propria figura professionale sul disimpegno più puro, si è sforzato per 40 anni e più di carriera di non perorare mai, in scena dico, nella sua vita privata non so nulla, di non perorare mai la benché minima causa, tranne quella della risata fine a se stessa. È un personaggio a prova di dissenso. E poi è un personaggio che Il ricordo della cui morte ancora recente, della cui malinconica fine, aggiunge alla sua figura quel che di patetico che tronca sul nascere qualsiasi critica indebita. Poveraccio, ci ha fatto tanto ridere e adesso ci vogliono far piangere su di lui. È proprio vero che non c'è più rispetto per nessuno.